Ho in tasca un biglietto dell'Arbeitsdienst dove è scritto che lo Häftling 174517, come operaio specializzato, ha diritto a camicia e mutande nuove e deve essere sbarbato ogni mercoledì. La Buna, dilaniata, giace sotto la prima neve, silenziosa e rigida, come uno smisurato cadavere. Ogni giorno abbaiano le sirene del Flieger allarma. I russi sono a 80 chilometri. La centrale elettrica è ferma. Le colonne del metanolo non esistono più. 3 dei 4 gasometri dell'acetilene sono saltati. Nel nostro lager affluiscono ogni giorno alla rinfusa i prigionieri recuperati da tutti i campi della Polonia orientale. I meno vanno al lavoro, i più proseguono senz'altro per Birkenau e per il camino. La razione è stata ancora ridotta. Il KB rigurgita. Gli E-Häftlinge hanno portato in campo la scarlattina, la difterite e il tifo petecchiale. Ma lo Häftling 174517 è stato promosso specialista e ha diritto a camicia e mutande nuove e deve essere raso ogni mercoledì. Nessuno può vantarsi di comprendere i tedeschi. Siamo entrati in laboratorio timidi, sospettosi e disorientati, come tre bestie selvagge che si addentrino in una grande città. Come è liscio e pulito il pavimento? Questo è un laboratorio sorprendentemente simile a qualunque altro laboratorio. Tre lunghi banchi di lavoro carichi di centinaia di oggetti familiari. La vetreria in un angolo a sgocciolare, la bilancia analitica, una stufa Hereus, un termostato Höppler. L'odore mi fa trasalire come una frustata. Il debole odore aromatico dei laboratori di chimica organica. Per un attimo, evocata con violenza brutale e subito svanita, la grande sala semibuia dell'università, il quarto anno, l'aria mite del maggio in Italia. Ersta Winoga ci assegna i posti di lavoro. Stavinoga è un tedesco polacco ancor giovane, dal viso energico, ma insieme triste e stanco. È anche lui doctor, non in chimica, bensì, ne pas chercher à comprendre, in glottologia. Tuttavia è lui il capo laboratorio. Con noi non parla volentieri, ma non sembra maldisposto. Ci chiama Monsieur, il che è ridicolo e sconcertante. In laboratorio la temperatura è meravigliosa. Il termometro segna 24 gradi. Noi pensiamo che ci possono anche mettere a lavare la vetreria, o a scopare il pavimento, o a trasportare le bombole di idrogeno, qualunque cosa pur di restare qui dentro. E il problema dell'inverno per noi sarà risolto. E poi, a un secondo esame, anche il problema della fame non dovrebbe essere difficile a risolversi. Vorranno proprio perquisirci ogni giorno all'uscita. O quando anche così fosse, ogni volta che domanderemo di andare alla latrina. Evidentemente no. E qui c'è sapone, c'è benzina, c'è alcol. Mi cucirò una tasca segreta nell'interno della giacca. Farò una combinazione con l'inglese che lavora in officina e commercia in benzina. Vedremo quanto severa sarà la sorveglianza. Ma ormai ho un anno di lager e so che se uno vuole rubare e ci si dedica seriamente, non esiste sorveglianza e non esistono perquisizioni che glielo possano impedire. A quanto pare, dunque, la sorte, battendo strade insospettate, ha fatto sì che noi tre, oggetto di invidia per i 10.000 condannati, non avremo quest'inverno né freddo, né fame. Questo vuol dire forti probabilità di non ammalarsi gravemente, di salvarsi dai congelamenti, di superare le selezioni. In queste condizioni, persone meno esperte di noi delle cose del lager potrebbero anche essere tentate dalla speranza di sopravvivere e dal pensiero della libertà. Noi no. Noi sappiamo come vanno queste faccende. Tutto questo è un dono del destino, che come tale va goduto il più intensamente possibile e subito. Ma del domani non v'è certezza. Al primo vetro che romperò, al primo errore di misura, alla prima disattenzione, ritornerò a consumarmi nella neve e nel vento, fino a che sarò anch'io pronto per il cammino. E inoltre, chi può sapere che cosa accadrà quando i russi verranno? Perché i russi verranno. Il suolo trema notte e giorno sotto i nostri piedi. Nel vuoto silenzio della Buna, il fragore sommesso e sordo delle artiglierie risuona ormai ininterrotto. si respira un'aria tesa, un'aria di risoluzione. I polacchi non lavorano più, i francesi camminano di nuovo a testa alta, gli inglesi ci strizzano l'occhio e ci salutano di nascosto con la V dell'indice e del medio, e non sempre di nascosto. Ma i tedeschi sono sordi e ciechi, chiusi in una corazza di ostinazione e di deliberata sconoscenza. Ancora una volta hanno fissato la data dell'inizio della produzione di gomma sintetica. Sarà per il 1° febbraio 1945. Fabbricano rifugi e trincee, riparano i danni, costruiscono, combattono, comandano, organizzano e uccidono. Che altro potrebbero fare? Sono tedeschi. Questo loro agire non è meditato e deliberato, ma segue dalla loro natura e dal destino che si sono scelti. Non potrebbero fare altrimenti. Se si ferisce il corpo di un agonizzante, la ferita incomincia tuttavia a cicatrizzare, anche se l'intero corpo morrà fra un giorno. Adesso, ogni mattina, alla divisione delle squadre, il capo chiama prima di tutti gli altri noi tre del laboratorio, die drei Leute vom Labor. In campo, alla sera e al mattino, nulla mi distingue dal gregge, ma di giorno, al lavoro, io sto al coperto e al caldo, e nessuno mi picchia. Rubo e vendo sapone e benzina, senza serio rischio, e forse avrò un buono per le scarpe di cuoio. Inoltre, si può chiamare lavoro questo mio? Lavorare e spingere vagoni, portare travi, spaccare pietre, spalare terra, stringere con le mani nude il ribrezzo del ferro gelato. Io invece sto seduto tutto il giorno. Ho un quaderno e una matita e mi hanno perfino dato un libro per rinfrescarmi la memoria sui metodi analitici. Ho un cassetto dove posso riporre berretto e guanti e quando voglio uscire basta che avvisi Herr Stavinoga, il quale non dice mai di no, e se ritardo non fa domande. Ha l'aria di soffrire nella sua carne per la rovina che lo circonda. I compagni del comando mi invidiano e hanno ragione. Non dovrei forse dirmi contento? Ma non appena, al mattino, io mi sottraggo alla rabbia del vento e varco la soglia del laboratorio, ecco al mio fianco la compagna di tutti i momenti di tregua, del cabè, e delle domeniche di riposo. La pena del ricordarsi, il vecchio feroce struggimento di sentirsi uomo, che mi assalta come un cane all'istante in cui la coscienza esce dal buio. Allora prendo la matita e il quaderno e scrivo quello che non saprei dire a nessuno. Poi ci sono le donne. Da quanti mesi non vedevo una donna? Non di rado si incontravano in Buna le operaie ucraine e polacche, in pantaloni e giubba di cuoio, massicce e violente come i loro uomini. Erano sudate e scarmigliate d'estate, imbottite di abiti spessi d'inverno. Lavoravano di pala e di piccone, e non si sentivano accanto come donne. Qui è diverso. Di fronte alle ragazze del laboratorio, noi tre ci sentiamo sprofondare di vergogna e di imbarazzo. Noi sappiamo qual è il nostro aspetto. Ci vediamo l'un l'altro e talora ci accade di specchiarci in un vetro terso. Siamo ridicoli e ripugnanti. Il nostro cranio è calvo il lunedì e coperto di una corta muffa brunastra il sabato. Abbiamo il viso gonfio e giallo, segnato in permanenza dai tagli del barbiere frettoloso e spesso da lividure e piaghe torpide. Abbiamo il collo lungo e nodoso come polli spennati. I nostri abiti sono incredibilmente sudici, macchiati di fango, sangue e untume. Le brache di Kendall gli arrivano a metà polpacci, rivelando le caviglie ossute e pelose. La mia giacca mi spiove dalle spalle come da un attaccapanni di legno. Siamo pieni di pulci e spesso ci grattiamo spudoratamente. Siamo costretti a domandare di andare alla latrina con umiliante frequenza. I nostri zoccoli di legno sono insopportabilmente rumorosi e incrostati di strati alterni di fango e del grasso regolamentare. E poi, al nostro odore noi siamo ormai avvezzi, ma le ragazze no, e non perdono occasione per manifestarcelo. Non è l'odore generico di mal lavato, ma l'odore di Häftling, scialbo e dolciastro, che ci ha accolti al nostro arrivo in lager ed esala tenace dai dormitori, dalle cucine, dai lavatoi e dai cessi del lager. Lo si acquista subito e non lo si perde più. Così giovane già puzzi. Così si usa accogliere fra noi i nuovi arrivati. A noi queste ragazze sembrano creature ultraterrene. Sono tre giovani tedesche, più Fräulein Lichtsba, polacca, che è la magazziniera, e Frau Meier, che è la segretaria. Hanno la pelle liscia e rosea, begli abiti colorati, puliti e caldi, i capelli biondi, lunghi e ben ravviati. Parlano con molta grazia e compostezza, e invece di tenere il laboratorio ordinato e pulito come dovrebbero, fumano negli angoli. Mangiano pubblicamente tartine di pane e marmellata, si limano le unghie, rompono molta vetreria e poi cercano di darne a noi la colpa. Quando scopano ci scopano i piedi, con noi non parlano e arricciano il naso quando ci vedono trascinarci per il laboratorio, squallidi e sudici, disadatti e malfermi sugli zoccoli. Una volta ho chiesto un'informazione a Fräulein Lichtsba e lei non mi ha risposto, ma si è volta a Stavinoga con viso infastidito e gli ha parlato rapidamente. Non ho inteso la frase, ma Stinchiude l'ho percepito chiaramente e mi si sono strette le vene. Stavinoga mi ha detto che per ogni questione di lavoro ci dobbiamo rivolgere a lui direttamente. Queste ragazze cantano, come cantano tutte le ragazze di tutti i laboratori del mondo, e questo ci rende profondamente infelici. Discorrono fra loro. Parlano del tesseramento, dei loro fidanzati, delle loro case, delle feste prossime. Domenica vai a casa? Io no, è così scomodo viaggiare. Io andrò a Natale, 2 settimane soltanto, e poi sarà ancora Natale. Non sembra vero, quest'anno è passato così presto. Quest'anno è passato presto. L'anno scorso a quest'ora io ero un uomo libero. Fuori legge, ma libero. Avevo un nome e una famiglia. Possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo a molte lontanissime cose, al mio lavoro, alla fine della guerra, al bene e al male, alla natura delle cose e alle leggi che governano l'agire umano, e inoltre alle montagne, a cantare, all'amore, alla musica, alla poesia. Avevo una enorme, radicata, sciocca fiducia nella benevolenza del destino, e uccidere e morire mi parevano cose estranee e letterarie. I miei giorni erano lieti e tristi, ma tutti li rimpiangevo. Tutti erano densi e positivi. L'avvenire mi stava davanti come una grande ricchezza. Della mia vita di allora non mi resta oggi che quanto basta per soffrire la fame e il freddo. Non sono più abbastanza vivo per sapermi sopprimere. Se parlassi meglio tedesco potrei provare a spiegare tutto questo a Frau Meier, ma certo non capirebbe. O se fosse così intelligente e così buona da capire, non potrebbe sostenere la mia vicinanza e mi fuggirebbe, come si fugge il contatto con un malato incurabile o con un condannato a morte. O forse mi regalerebbe un buono per mezzo litro di zuppa civile. Quest'anno è passato presto. L'ultimo. Ormai Natale è vicino. Alberto ed io camminiamo spalla contro spalla nella lunga schiera grigia, curvi in avanti per resistere meglio al vento. È notte e nevica. Non è facile mantenersi in piedi, ancora più difficile mantenere il passo e l'allineamento. Ogni tanto qualcuno davanti a noi incespica e rotola nel fango nero. Bisogna stare attenti a evitarlo e a riprendere il nostro posto nella fila. Da quando io sono in laboratorio, Alberto ed io lavoriamo separati e nella marcia di ritorno abbiamo sempre molte cose da dirci. Di solito non si tratta di cose molto elevate, del lavoro, dei compagni, del pane, del freddo, ma da una settimana c'è qualcosa di nuovo. Lorenzo ci porta ogni sera 3 o 4 litri della zuppa dei lavoratori civili italiani. Per risolvere il problema del trasporto abbiamo dovuto procurarci ciò che qui si chiama una menasca, vale a dire una gamella fuori serie di lamiera zincata, piuttosto un secchio che una gamella. Silberlust, il lattoniere, ce l'ha fabbricata con 2 pezzi di grondaia, in cambio di 3 razioni di pane. È uno splendido recipiente, solido e capace, dal caratteristico aspetto di arnese neolitico. In tutto il campo solo qualche greco possiede una menasca più grande della nostra. Questo, oltre ai vantaggi materiali, ha comportato un sensibile miglioramento della nostra condizione sociale. Una menasca come la nostra è un diploma di nobiltà, è un segno araldico. Henri sta diventando nostro amico e parla con noi da pari a pari. Elle ha assunto un tono paterno e condiscendente. Quanto a Elias ci è perennemente alle costole, e mentre da una parte ci spia con tenacia per scoprire il segreto della nostra organizazia, dall'altra ci subissa di incomprensibili dichiarazioni di solidarietà e di affetto, e ci introna con una litania di portentose oscenità e bestemmie italiane e francesi che ha imparate chissà dove, e con le quali intende palesemente onorarci. Quanto all'aspetto morale del nuovo stato di cose, Alberto e io abbiamo dovuto convenire che non c'è di che andare molto fieri, ma è così facile trovarsi delle giustificazioni. D'altronde, questo stesso fatto di avere nuove cose di cui parlare non è un vantaggio trascurabile. Parliamo del disegno di comprarci una seconda menasca per fare la rotazione con la prima, in modo che ci basti una sola spedizione al giorno all'angolo remoto del cantiere dove ora lavora Lorenzo. Parliamo di Lorenzo e del modo di compensarlo. Dopo, se ritorneremo, sì, certamente, faremo tutto quanto potremo per lui. Ma a che pro parlare di questo? Sia lui che noi sappiamo bene che è difficile che noi torniamo. Bisognerebbe fare qualcosa subito. Potremmo provare a fargli riparare le scarpe nella calzoleria del nostro lager, dove le riparazioni sono gratuite. Sembra un paradosso, ma ufficialmente nei campi di annientamento è tutto gratuito. Alberto proverà, è amico del ciabattino capo. Forse basterà qualche litro di zuppa. Parliamo di 3 nuovissime nostre imprese e ci troviamo d'accordo nel deplorare che evidenti ragioni di segreto professionale sconsiglino di spiattellarle in giro. Peccato, il nostro prestigio personale ne trarrebbe un grande vantaggio. Della prima è mia la paternità. Ho saputo che il blocco e il tester del 44 è a corto di scope e ne ho rubata una in cantiere. E fin qui non c'è nulla di straordinario. La difficoltà era quella di contrabbandare la scopa in lager durante la marcia di ritorno, e io l'ho risolta in un modo che credo inedito, smembrando la refurtiva in saggina e manico, segando quest'ultimo in 2 pezzi, portando in campo i vari articoli separatamente, i 2 tronconi di manico legati alle cosce dentro i pantaloni, e ricostituendo il tutto in lager, per il che ho dovuto trovare un pezzo di lamiera, martello e chiodi per risaldare i 2 legni. Il travaso ha richiesto 4 soli giorni. Contrariamente a quanto temevo, il committente non solo non ha svalutata la mia scopa, ma l'ha mostrata come una curiosità a parecchi suoi amici, i quali mi hanno passato regolare ordinazione per altre 2 scope dello stesso modello.